io sarebbe bello, e lo sai che anch'io vorrei. Quando restiamo al buio, nei tuoi occhi fuggirei. Come ci starei qui vicino a te? Cosa ti farei se restassi qui? Come ci starei vicino a te? Mai tardi e lo sai. È un fuoco e tu lo sai, quel pensiero che mi dà. Ma il cuore che c'è in lui lo sai, è il mare che vorrei. Come ci starei qui vicino a te? Cosa ti farei se restassi qui? Come ci starei vicino a te? Mai tardi e lo sai. Facile, facile, poi per quanto resterai. Facile, facile, dopo tu cosa dirai? Come ci starei qui vicino a te? Cosa ti farei se restassi qui? Come ci starei vicino a te? Mai tardi e lo sai. Facile, facile, poi